Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Oggi inizio dando i numeri. Intanto buongiorno da Nicoletta e benvenuta ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Risveglio. Sì, vi dicevo, do i numeri perché partiamo da uno studio dell'Università di Harvard, uno studio della Scuola di Epidemiologia dell'Università di Harvard, che sottolinea una relazione tra concentrazione di polveri sottili e malattia di Covid. Per commentare i dati di questo studio ho chiesto aiuto a un esperto, il dottor Francesco Forastiere, che è già in linea con noi. Dottore, buongiorno, grazie. Sì, buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Epidemiologo, professore all'Imperial College di Londra e direttore scientifico della rivista Epidemiologia e Prevenzione. Dottor Forastiere, le polveri sottili sono già state indagate da altri studi, ma che cosa dice di nuovo lo studio di Harvard? Sì, in breve, che l'inquinamento atmosferico, soprattutto l'inquinamento da polveri sospese o polveri sottili, sia responsabile di effetti sanitari importanti sull'apparato respiratorio, ma anche sull'apparato cardiovascolare, su altri organi, è cosa ben conosciuta. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte sull'importanza delle polveri e dell'inquinamento per quanto riguarda gli effetti sulla salute. È ovvio che persone che sono cronicamente esposte ad alti livelli di inquinamento atmosferico hanno una maggiore infiammazione delle vie respiratorie e possono essere quindi più suscettibili a una malattia che colpisce in prima istanza proprio il polmone, quindi possono essere più suscettibili alla malattia Covid-19. Ora, questa è un'ipotesi biologicamente possibile. Lo studio di Harvard, dei colleghi di una scuola importante di epidemiologia, hanno messo in relazione la frequenza hanno messo in relazione l'esposizione cronica a inquinamento atmosferico con la mortalità per malattia Covid-19. Si tratta di uno studio, questo che loro hanno fatto, in una situazione ancora iniziale della possibilità di studiare l'epidemia, uno studio di una qualità non eccellente, perché si tratta di uno studio su dati aggregati. Hanno studiato le contee, 3.000 contee negli Stati Uniti, e hanno rilevato la relazione con i tassi di mortalità nelle contee. È ovvio che si tratta di uno studio iniziale che viene insieme ad altri studi di qualità anche inferiore, ma che ci rimanda a un'ipotesi che è sostanzialmente plausibile. Quindi, dottor Forastiere, questi studi inaugurano, per così dire, un nuovo filone di ricerca e poi la ricerca va avanti. Certo, la ricerca deve andare avanti proprio per l'importanza dell'inquinamento atmosferico, per il fatto che è ubiquitario, soprattutto in Italia. Siamo ancora a livelli non sostenibili in molte regioni italiane, quindi si tratta di un problema di sanità pubblica importante. È ovvio che la relazione con la malattia Covid-19 è tutt'altro che dimostrata, quindi è indubbio che va aperto un fronte di ricerca con studi di qualità superiore. Quando dico studi di qualità superiore, sono studi che possono essere condotti nelle regioni italiane, che prendono in considerazione non dati aggregati come le province o i comuni, come è stato fatto fino adesso, ma prendono in considerazione gli individui, quindi l'esposizione individuale all'inquinamento atmosferico e il rischio di malattia, o il rischio che la malattia si aggravi fino a condurre alla morte. Grazie, professor Forastiere, per averci prestato il suo occhio clinico, il suo occhio da epidemiologo nella lettura di questi dati. Intanto la ringrazio e le auguro una buona giornata e spero di risentirla presto. Grazie a voi. Grazie. Bene, sicuramente l'inquinamento e la relazione tra l'inquinamento e la salute è un tema su cui torneremo e la ricerca sta lavorando. Noi nel frattempo possiamo, come sempre si dice, fare la nostra parte e in qualche modo dare il nostro contributo e essere gentili. Noi questa settimana lavoriamo sulla gentilezza con l'ambiente che ci circonda e di questo parliamo con il dottor Daniele Pernigotti, biologo, consulente ambientale ed esperto in cambiamenti climatici, che è già in linea con noi. Dottor Pernigotti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Dottor Pernigotti, gentilezza nei confronti dell'ambiente, come possiamo declinarla? Cosa possiamo fare? Ma io parlerei intanto del tema dell'uso delle risorse, perché sì, è andato di fatto che insomma abbiamo frequentato il pianeta un po' come ai tempi del Far West, quindi consumando le risorse intorno a noi senza nessun limite, senza nessun controllo. E in realtà quello di cui siamo resi conto nel tempo è che non abbiamo davanti a noi una prateria sconfinata, ma siamo nella nostra piccola terra come se fossimo una piccola isola del Pacifico. E quindi dovremmo avere cura di quello che sta intorno a noi, perché lo spazio è finito e dobbiamo quindi muoverci con molta più attenzione e delicatezza. Ecco, questo è un punto importante, credo. Proviamo a fare un esempio, dottor Pernigotti. Caliamoci nella realtà quotidiana. Beh, allora, un esempio molto pratico è quello del packaging. Il packaging è per definizione un materiale che noi compriamo insieme al prodotto. Cioè, in realtà ci interessa il prodotto, però compriamo anche il packaging. Sì. E nel momento in cui lo acquistiamo il prodotto, il packaging finisce nella spazzatura. Quindi sì, io credo che ci dovremmo imparare a fare attenzione a questo, no? E muoversi con gentilezza vuol dire anche fare attenzione al packaging quando compriamo un prodotto, perché meno packaging vuol dire anche meno rifiuti. E se possiamo aggiungere una cosa, dobbiamo anche fare attenzione a come gestiamo i rifiuti. Siamo già abbastanza bravi con la raccolta differenziata, però se immaginiamo il rifiuto come dire una risorsa, appunto, che può avere una seconda vita, allora possiamo fare attenzione anche magari a sciacquare il vasetto di yogurt prima di buttarlo nel cestino, perché quella plastica sarà riciclata e meno sporca è e meglio sarà riciclata. Un altro tema che è strettamente legato all'ambiente è il cambiamento climatico, che mette necessariamente in discussione le modalità con cui noi produciamo e consumiamo energia, mi sembra. Sì, sicuramente. Noi su questo siamo stati decisamente arroganti sul pianeta. Abbiamo camminato, io uso spesso questa immagine, con degli stivali sporchi di petrolio e carbone nei nostri bellissimi tappeti o parquet della camera o del salotto. Ecco, questo è il modo in cui abbiamo frequentato in questo momento il pianeta. Mentre dovremmo imparare... È un'immagine che rende molto bene. Sì, ecco, tenga conto che noi mettiamo 50 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente ogni anno. 50 miliardi di tonnellate di carbone, petrolio bruciati e messi in atmosfera come CO2. Penso che dia proprio l'immagine degli stivali sporchi di petrolio. È vero. E noi invece dobbiamo toglierci gli stivali, metterci con le nostre calze e camminare in punta dei piedi con delicatezza. Questo vuol dire la gentilezza rispetto anche al pianeta, ed è una cosa che non possiamo più rimandare. Insomma, siamo tutti consapevoli di quanto sia importante il cambiamento climatico e del fatto che dobbiamo toglierci gli stivali e camminare in punta dei piedi. Sì, dobbiamo cambiare anche mentalità, vedere le cose sotto un'altra luce. Sì, sicuramente se posso fare un esempio su questo che mi sembra eclatante ed è un segno del cambiamento, è che noi fino anche qua qualche anno fa vedevamo le nostre abitazioni come dei pozzi che consumavano energia per tutte le attività che facciamo all'interno delle nostre case, no? Però abbiamo adesso imparato anche a vedere che in realtà le nostre case possono produrre energia. I pannelli fotovoltaici, il solare termico, il fotovoltaico, appunto, sono non più delle cose futuribili, sono una realtà che è anche conveniente dal punto di vista economico ormai con le batterie d'accumulo. Quindi questo passaggio di una grande trasformazione mentale dal consumatore che depreda le risorse naturali a un essere consapevole che invece produce energia e vede la casa come un soggetto che diventa produttore di energia, mi sembra un messaggio abbastanza importante. Molto gentile. Grazie, dottor Pernigotti, per essere stato con noi, per averci dato anche questi suggerimenti, queste suggestioni. Spero di sentirla presto. Le auguro una bellissima giornata. Anche a lei altrettanto. Buongiorno. Prima di salutarvi vi ricordo che, come ogni giorno, sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute ci sono gli approfondimenti di Daniel Lumera, che oggi ci darà delle piccole idee, delle piccole suggestioni per ridurre l'inquinamento e riconnetterci con la natura. Ringrazio in assistenza Claudia Schiattone, in regia Pietro Lacorte, in redazione Laura Vanossi. Vi aspetto alle 12 dopo il GR per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Siate gentili, seguiteci. Buona giornata da Nicoletta.